Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Buongiorno, parliamo con l'elefante delle licenze facili, della cementificazione, dell'abuso selvaggio. Cioè parliamo del luogo comune che immediatamente ha incastrato una proposta di Berlusconi, del governo, fate voi, di alcune regioni governate dal centrodestra come il Veneto e la Sardegna, o magari come il Comune di Milano, la proposta cioè di rilanciare l'edilizia attraverso la liberalizzazione, la battaglia contro gli impedimenti burocratici e vincolistici. Il luogo comune ha subito, diciamo, irregimentato questa roba dentro uno schema classico che ha delle sue giustificazioni, che ha una sua legittimazione naturalmente. L'Italia è un paese molto bello e molto sfigurato dall'abusivismo edilizio. È un paese molto bello nel quale non si è stati capaci di costruire in modo armonico, rispettandone la bellezza, l'armonia paesaggistica, eccetera. E quindi l'Italia poi ha prodotto molte leggi, molte norme, molti vincoli, molti lacci, molti lacciuoli che impedissero il dilagare di questo abusivismo. E abbiamo fatto bene a farlo, e bisogna stare attenti, e ci sono molti rischi naturalmente quando si parla di, come dire, autolicenza edilizia, cioè quando si parla di concessioni che vengono, perché questo è uno degli elementi della proposta del governo, concessioni edilizie che vengono direttamente dalla persona che vuole intraprendere, finanziare una ristrutturazione, allargare e aumentare la cubatura di una casa che abita o di un capannone industriale, attraverso una autocertificazione, cioè dando a un professionista la possibilità di fare una dichiarazione giurata, il che naturalmente è molto diverso che non richiedere e ottenere una licenza edilizia. Quindi tutte le perplessità sono ovviamente legittime e giustificate, però io faccio un'osservazione guardando la prima pagina di oggi di Repubblica. Michele Serra, commentatore del giornale, dice: la sinistra deve sapere dire no, non deve farsi fregare dall'idea che dice sempre no. Dipende dal merito, dall'argomento. Ci sono cose sulle quali bisogna dire no, si deve essere capaci di dire no, e senza nessuna paura, senza nessuna remora. No, punto, no, perché è sbagliato a quella cosa lì. Sopra l'articolo di Serra c'è l'appello degli architetti, grandi firme dell'architettura contemporanea italiana, Gaia Aulenti, Massimiliano Fuchs, Vittorio Gregotti, e l'appello a firmare per tutti. Un appello breve, 10 righe, non c'è scritto nulla, non c'è proprio il merito della questione, è un no completamente ideologico. Le licenze facili, i permessi edilizi fai da te, la fine delle nostre istituzioni, l'apocalisse, diventeremo un immenso imbuto di cemento, è la fine del mondo, ma non spiegano, non argomentano, non dicono nulla, dicono soltanto che insomma bisogna stare fermi alla politica vincolistica e non si può liberalizzare. La cosa è tanto più assurda in quanto poi il titolo principale di Repubblica è: allarme dell'Europa, altri 6 milioni di disoccupati. La discussione che si fa sulla rottamazione delle vecchie case, sull'edilizia fai da te, su tutte queste altre belle cose qui, è una discussione che si fa in tempi di crisi. Bisogna che ne tengano conto anche i grandi architetti, i commentatori, gli intellettuali, la destra, la sinistra, le regioni di ogni orientamento. Comunque cercheremo di capire di che si tratti veramente, perché poi ancora un testo preciso del disegno di legge che dovrebbe essere approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri non c'è. Però è una cosa grande, importante, che ci riguarda tutti. Non ho il quadro qui nel mio computer delle evenienze, no, ma c'ho delle nuvolette, dei bei prati verdi, delle mucche che pascolano. 800 24 00 24. Abbiamo nello studio di Milano un esperto, giornalista del Sole 24 Ore, Saverio Fossati. Poi abbiamo sempre in collegamento al microfono il senatore Roberto Della Seta del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Ambiente, un ambientalista, è stato anche presidente, forse lo è ancora, della Lega Ambiente, e Claudio De Albertis, anche lui al microfono, presidente di Assimpredil, un'associazione nell'ambito dell'Unione Costruttori, dell'Associazione Costruttori, che raggruppa particolarmente imprese edili delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Questa proposta di Berlusconi si muove come un panzer, liberalizzare l'edilizia, avendo da una parte una legge della regione Veneto che sta per essere approvata nella giunta regionale e poi andrà in consiglio, che va nella stessa direzione, e dall'altra anche un piano di governo del territorio che dovrebbe entro un anno sostituire il vecchio piano regolatore di Milano, che è molto audace anche quello, perché dice che bisogna aumentare la densità urbana di Milano. Vedremo poi che cosa significa questo. Non significa che bisogna rendere Milano più affollata e congestionata, significa che bisogna governare il territorio recuperando aree, anche diciamo con la funzione di riequilibrare ecologicamente la città, ma contemporaneamente naturalmente così elevare in verticale un po' la densità di questa grande città europea. Saverio Fossati, che cosa concretamente per adesso possiamo aspettarci intanto dal piano del governo? Ma sulla base parlo di dettagli, no? Sì, sì. I milioni stanziati per l'edilizia popolare, che sono diciamo un piccolo spicchio di piano casa sulla tradizione dei vecchi piani casa popolari come Fanfani, De Gasperi, eccetera, l'aumento delle cubature, gli sconti fiscali. Se ci può raccontare un po' proprio il concreto del... Il piano casa, anzitutto, probabilmente, a meno che non ci siano almeno due legislature a disposizione, piano casa nel senso di nuove edificazioni popolari, ristrutturazioni di interi quartieri, riqualificazioni, non si farà, perché sono almeno 20 anni che vengono fatti piani casa che non riescono ad arrivare alla fine della legislatura, perché sono procedure molto complesse che implicano normative regionali e piani comunali, quindi come quello di Di Pietro, che era abortito addirittura prima di cominciare perché la legislatura è durata solo 1 anno e mezzo. Mediamente ci vogliono 10 anni, infatti giustamente tu hai citato il piano Fanfani perché quando c'era la Democrazia Cristiana le legislature duravano 30 anni in realtà, quindi c'era tutto il tempo per fare queste cose, quindi non illudiamoci sulle possibilità di riqualificare quartieri, di edificare decine di migliaia di case popolari. Vengono stanziati un po' di soldi per le nuove edificazioni, va bene, però nel contempo quello che è l'atteggiamento di questo governo, come lo è sempre stato nei governi di centrodestra, è di facilitare l'acquisto delle case popolari e un tempo anche delle case degli enti previdenziali da parte degli inquilini, cioè dismettere il patrimonio pubblico. Giusto o sbagliato che sia questa politica, comunque sia arriverà a aumentare l'aliquota di coloro che possiedono una casa e a diminuire l'aliquota degli inquilini, a costo certo di sacrifici, però è questa l'idea, non tanto... L'aliquota che è già molto alta, va bene, ma questa è la parte forse meno importante di quello che è stato annunciato dal governo, no? Per quanto forse, certo, per quanto... La parte importante è quella che dice fate da voi, cioè investite i vostri soldi, non i soldi del governo, non i soldi dell'erario, non i soldi dei contribuenti, i vostri soldi per stare meglio, per ingrandire e rendere più confortevole e aumentare di valore il vostro patrimonio edilizio abitativo oppure industriale, quando si parla non di cubature ma di superfici. Questa è la cosa veramente interessante, diciamo la rottamazione dell'edilizia abitativa attraverso la liberalizzazione. Ci può raccontare questa parte del provvedimento? Sì, ci sono due aspetti. Il primo è l'ampliamento, una premessa, ecco, nel testo che sta circolando si parla comunque A, del fatto che le regioni devono recepire la norma, B, che i comuni possono autorizzare questi mutamenti alla normativa vigente. Di conseguenza c'è anche qui, diciamo, una cosa non del tutto immediata, non c'è una cementificazione indiscriminata, ma una serie di step di controllo. Il primo aspetto è quello degli ampliamenti. Allora, si potrà aumentare fino al 20% della volumetria residenziale e fino al 20% della superficie a uso diverso. Questo che cosa vuol dire? Che praticamente la volumetria è un terzo, per così dire, della superficie a grandi linee, perché per fare 300 metri cubi ce ne saranno circa 100 metri quadrati. Quindi quando si dice 20% di volumetria si allude a un numero di metri quadrati che è circa un terzo della superficie, mentre invece per gli ampliamenti degli immobili a uso diverso, cioè uffici, negozi, fabbriche, eccetera, si parla direttamente della superficie, e già questo consentirà una certa diversificazione degli investimenti dei proprietari. È da dire che qui sarà anche possibile in certi casi avere lo sconto famoso del 36%, quello fiscale già esistente, quando si amplieranno i semplici volumi tecnici, che in italiano vuol dire stringi i famosi sottotetti, già adesso agevolabili, che però adesso diventeranno più facilmente assentibili dal punto di vista normativo, diventeranno abitabili più facilmente proprio grazie a questa normativa. Questa norma, è vero che Berlusconi ha detto che servirà ad aggiungere il bagno o la cameretta in più nella villetta, ma dove invece ci sono gli appartamenti servirà prevalentemente a due cose: primo, sfruttare i sottotetti, soprattutto dove le regioni ancora hanno reso un po' complicato questa normativa, questa possibilità, e secondo, fare le famose verandine sui balconi, che erano poi i due tipici abusi fiscali da condonare nei condoni edilizi precedenti. Il rischio di cementificazione quindi è veramente molto limitato relativamente a questo aspetto. Al massimo, certo, se uno possiede la villa o la villetta potrà aggiungere una stanza in più, però consideriamo appunto che 20% di volumetria vuol dire circa 7% di superficie, quindi non ci saranno grandi modifiche all'aspetto esterno delle case. Per capirci, c'è un codice dei beni culturali, ci sono norme di tutela del paesaggio, dei centri storici, ci sono paletti per evitare di sfigurare il territorio italiano, no? Sì, queste norme non cadono, no. Resta una legislazione regionale, resta l'autorizzazione da parte dei comuni. Il problema è che il primo passo non è così complicato, dovrebbe essere semplificato, reso meno complicato di come è adesso, e come dire, si dà il calcio d'avvio, lo dà direttamente il proprietario di casa, che si fa, come dire, imprenditore, impresario edilizio di se stesso, insomma, mette i soldi, comincia e fa fare la perizia giurata a un professionista, che naturalmente poi ne è responsabile. È una liberalizzazione, ma non è un'abolizione delle regole, mi pare, no? Assolutamente no, si tratta semplicemente di una versione lievemente più estesa di quella che chiamavano la superdia, cioè la possibilità, il permesso di distruggere e ricostruire, che poi peraltro è il secondo elemento la di novità. La DIA è la dichiarazione di inizio attività. Attività. Domando scusa per l'acronimo. No, si figuri. Claudio De Albertis, grazie Fossati. Poi Claudio De Albertis, i costruttori sono favorevoli a queste nuove norme proposte dal governo, no? Ma decisamente sì, soprattutto visto il periodo in cui viviamo. Noi facciamo previsioni piuttosto negative sul 2008, sul 2009, sul 2010 per l'andamento del settore e sull'occupazione. Noi parliamo solo nel 2009 di una caduta dell'occupazione di 200.000 occupati, circa il 10% degli occupati nel settore, che sono 2 milioni. Per cui provvedimenti che accelerino la spesa, che accelerino il percorso, che è mostruoso. Oggi un progetto edilizio ci mette circa 3 anni, 3 anni e mezzo per superare tutti i percorsi urbanistici, più circa almeno un anno quelli edilizi. Quindi ogni tanto l'adagio che i progetti nascono già vecchi è abbastanza vero, per cui qualunque soluzione, che poi sono soluzioni che ripercorrono proposte che già alcune regioni hanno adottato, ecco, quindi accelerare i percorsi. Per esempio, il quotidiano Il Giornale riferisce che il Trentino Alto Adige, che è la regione più verde d'Italia indiscutibilmente, che è la regione dove le questioni di compatibilità territoriali sono, come dire, tradizionalmente molto sensibili, ha già fatto, in relazione alla questione del risparmio energetico e di altre misure di ecosostenibilità, ha già fatto praticamente quello che si propone di fare adesso il governo. Adesso lì l'aumento delle cubature al 10% è vincola. Se tu ti rifai, ti ristrutturi il tuo appartamento mettendo nuovi infissi, isolanti termici, facendo numerosi interventi, eccetera, eccetera, hai delle facilitazioni fiscali e una sorta di incentivo ti dà la regione stessa a metterti un po' più comodo, più confortevole, a ristrutturare, ad ampliare, così, no? Assolutamente, ma non solo, questa è sicuramente la regione più all'avanguardia, ma la stessa regione Lombardia ha fatto un provvedimento e ha detto: nel calcolo dei volumi a questo punto tu non inserisci più il muro di tamponamento, il muro perimetrale, e il solo fatto di non calcolare questo, ha portato a un incremento automatico della volumetria nei fati di circa il 10%. Quindi al raggiungimento di una certa efficienza energetica, se usi delle energie rinnovabili, a questo punto hai questo premio. Per cui voglio dire, c'è da parte delle regioni la volontà di cercare di premiare costruzioni virtuose, soprattutto dal punto di vista dell'isolamento termico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Sentiamo un attimo, dottor De Albertis, Bruno da Roma, che ha una proposta. Bruno. Sì, buongiorno, San Ferrara. Buongiorno. Sì. Lei conosce Roma come la conosco io. Ma volevo sì, dire... passeggio per Roma. Anche quartieri. Ma quando c'è un palazzo già costruito, è stato stabilito con dei sostegni di mantenimento dei pesi, aumentare del 20%, 10% di uno, due appartamenti o il balcone, quel che sia, ma non si rischiano i crolli come si vedono ogni giorno, perché i sostegni sono per quel peso, mettere 20 o 1000 kg in più comporta le catastrofe che assistiamo ogni giorno. Poi una cosa, ma questa legge, io non sono contrario a priori, ma serve soltanto per le case già edificabili oppure per i nuovi progetti? Ma i nuovi progetti, specialmente a Roma, io non vedo mai che i costruttori lasciano un piccolo spazio per le persone, per il tempo libero, non ci sono questi spazi, non c'è proprio niente. Ben venga il 20%, il 30%, ma che mi si lascia anche qualcosa per, non so, quando si fanno questi centri, guardiamo il Torino, a Roma, pieno di palazzi di 20 piani, ma non c'è uno spazio di 50 metri o un posto dove si possono raggruppare le persone del bene, quartiere per discutere. Bene, sentiamo De Albertis, perché sono cose che poi riguardano la vera fatti, sono queste obiezioni anche così primarie, diciamo, sorgive, semplici, sono poi importanti da ricevere. Poi cosa rispondete a questo tipo di obiezioni? Ma guardi, sulla prima, quando l'ingegnere o chi firmerà la questione dovrà evidentemente rispondere anche per le questioni statiche, ci mancherebbe altro. Anzi, se le devo dire, invece dall'altra parte questo concetto della rottamazione degli edifici viene anche a supplire spesso delle carenze statiche degli edifici. Diciamo che il patrimonio esistente per il 60% è stato costruito negli anni 50 e 60, non è che anche le strutture durino in eterno. Sulla seconda osservazione sono totalmente d'accordo, adesso io cito solo il Comune di Milano, io vivo a Milano, il Comune di Milano ha deciso una norma già anni fa dicendo che tutte queste superfici di spazi comuni, di spazi collettivi per uso non costituiscono cubatura e da quel momento gli edifici nuovi prevedono appunto spazi fitness, spazi collettivi di raduno, ecco. Queste mi sembrano norme incentivanti da questo punto di vista, perché sono d'accordissimo, gli edifici oggi devono anche ricomprendere questa tipologia di spazi. Va bene, ci sono naturalmente poi obiezioni anche durissime e di principio, adesso parleremo con Giovanni da Brescia che dice che la liberalizzazione dei mercati finanziari ha portato solo disastri, si fa così anche per l'edilizia, addio, facciamo come per la finanza, per i titoli atipici, eccetera. Allora, parliamo delle liberalizzazioni dell'edilizia, 800 24 00 24, un sacco di telefonate, molte obiezioni di principio come dicevo prima. Roberto Della Seta al microfono, Partito Democratico, capogruppo nella Commissione Ambiente. Della Seta, la domanda è semplice. Potrebbe darsi che Berlusconi abbia di nuovo azzeccato una proposta che incontra un larghissimo consenso, perché l'idea di mettere nelle mani delle famiglie, dei proprietari, l'Italia è un paese di proprietari di case, lo sappiamo, è altissima la percentuale dei proprietari di appartamenti e di case, l'idea di mettere nelle loro mani la libertà di intraprendere con meno burocrazia potrebbe essere, basti vedere quello che è successo in Sardegna, dove Soru era il super vincolista che sfidato da Cappellacci e da Berlusconi, insomma Soru aveva detto non si costruisce fino a 3 chilometri dalle coste e insomma ha perso gravemente. Non avete paura di prenderla un po' troppo? Le star dell'architettura che oggi su Repubblica lanciano l'appello, quello proprio di principio, dicendo no, no e poi no, perché si tratta qui di cementificazione. Abbracciate questa linea? Ma io, può darsi che abbia ragione lei e che Berlusconi abbia di nuovo azzeccato un tema su cui è in sintonia con gli italiani, con Io credo che questa idea, se la si guarda un po' nel, per quello che fino adesso è il suo merito, è al tempo stesso insensata rispetto alle sue premesse e potenzialmente molto dannosa. Insensata perché io vorrei capire, ma secondo voi, secondo chi ci ascolta, in Italia oggi l'edilizia è ferma perché i vincoli, i lacci, i lacciuoli l'hanno scoraggiata, o è ferma perché si è fermata la domanda? In Europa, in Spagna per esempio, che forse è l'unico paese dove si è costruito più che in Italia negli ultimi anni, l'edilizia è in crisi drammatica perché non c'è più, non ci sono più soldi da spendere da parte dei cittadini, o perché le norme sono troppo sono burocraticamente troppo complicate? Cioè, la premessa per cui in Italia il problema che frena l'attività edilizia siano le regole è una totale, colossale stupidaggine. Sarebbe come dire che si rilancia il consumo dell'auto facendo in modo che i tempi di immatricolazione non sono più di una settimana ma diventano di 24 ore. Però il rappresentante dell'associazione dei costruttori prima diceva che ci vogliono 3 anni e mezzo più un anno per iniziare i lavori. De Albertis, lui lo sa molto meglio di me, ricordo che non c'è paese europeo, ripeto, forse con l'unica eccezione della Spagna, dove si sia costruito di più negli anni 90, negli anni 2000, che governasse la destra o governasse la sinistra. Semmai il problema noi l'abbiamo avuto nel campo delle infrastrutture, ma se parliamo di costruzioni, di abitazioni, di seconde case, noi veniamo da 20 anni di costruzione molto molto molto intensa. Questo per quanto riguarda la premessa, per cui dal punto di vista anticongiunturale, anticiclico, io credo che questa misura sarebbe totalmente inutile. Invece potrebbe avere un effetto molto dannoso rispetto al tema che anche gli architetti oggi sollevano su Repubblica e hanno sollevato in tanti in questi giorni. Il nostro paese ha già subito moltissime ferite da parte dell'abusivismo edilizio da un lato, ma anche di un modo di costruire formalmente legale che ha insomma rovinato parecchio del nostro territorio. L'effetto psicologico di questo annuncio, prima ancora che ci sarà una legge, ci saranno norme, rischia di essere, io temo, sia già un effetto di ricominciate a fare come vi pare. Peraltro, insomma, un'incitazione alla cementificazione abusiva. Berlusconi, da questo punto di vista è recidivo. Lui ha fatto 2 condoni edilizi, uno nel 94 e uno nel 2003. Ha anche fatto due città, sì, le porte di Milano, sì, con tutti i laghetti, le zanzare, le piste ciclabili. Prima ancora che questi 2 condoni diventassero legge, cioè, ci sono voluti alcuni mesi. Bene, in Italia in tutte e 2 quelle occasioni, nel 94 e nel 2003, è ripartito alla grande l'abusivismo edilizio, ma è evidente, perché il segnale, il messaggio che si invia è le regole si attenuano, si alleggeriscono, e quindi io penso e temo che già soltanto l'annuncio di queste misure, di cui non sappiamo ancora quale sarà poi il merito formale, potrà avere effetti su un paese per il quale il paesaggio e il territorio, sono forse la principale risorsa economica. Prima di dare la parola a Claudio Martini, che è un'autorità politica e di governo perché è presidente della Regione Toscana, volevo solo fare una verifica con Saverio Fossati. È vero che da noi si costruisce moltissimo, siamo pari solo alla Spagna nel tasso di costruzione, che la crisi non deriva dal fatto che ci sono i vincoli? Allora, si costruisce l'ultimo anno e c'è un notevole calo, 190.000 nuove edificazioni, 24.000 ampliamenti, quindi sì, si costruisce tanto, ma questo per una ragione eminentemente: mentre in Inghilterra è obbligatorio che il 30% del nuovo costruito sia edificato su aree dove sono state abbattuti immobili, qui da noi per qualche ragione misteriosa è complicatissimo abbattere i mobili e ricostruire, mentre invece questa norma lo rende effettivamente più semplice, e si tende a chiedere sempre nuove aree da edificare. Un ultimo accenno: l'edificato in Italia, intendendo edificazioni, non strade o parcheggi, è circa il 5% del territorio, che non è una percentuale particolarmente diversa da quella degli altri paesi europei, grazie agli Appennini. Non ho capito. Martini, la Regione Toscana è celebre per l'equilibrio leopoldino, insomma non è la regione dei grandi fatti abusivi, no? Però è anche un territorio molto appetito dove potrebbe configurarsi forse con provvedimenti come questi adombrati dal governo un volano di sviluppo, o no? Ma guardi, il problema è di capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando esattamente. Se stiamo parlando di una misura... Rendere più facile aumentare la cubatura del 20%. Di questo stiamo parlando. Allora, non mi sembra che sia la priorità fondamentale che abbiamo. Io ricordo che quando il governo si costituì, pochi giorni dopo, poche settimane dopo, fummo invitati come regioni a cominciare a lavorare a un piano casa. Un piano casa vuol dire dare le case, non il 20% in più di una casa, non 15-18 metri quadri, perché questo è il 20% di una casa media. Io penso che se il problema è affrontare la grave situazione della casa con un piano casa nazionale, governato, pilotato dal governo ma concordato con le regioni, è una cosa. Allora bisogna partire da una domanda: chi è che ha bisogno delle case? Chi ha bisogno delle case in Italia? E sono le giovani coppie, gli anziani, i lavoratori immigrati, regolari e via e via. Allora, se questa è la domanda, c'è da chiedersi, questi provvedimenti come tu dicevi adombrati, che di cui però non sa nulla nessuno nel merito, soprattutto non lo sanno le regioni che pure dovrebbero essere destinatari di una loro responsabilità, corrispondono a questa esigenza? Io francamente credo di no. Il provvedimento che viene adombrato, che viene annunciato, può avere un effetto di galvanizzazione o per chi la casa ce l'ha già, ma è in condizione di poter fare ampliamenti. Quanti sono questi in Italia? Nei condomini nessuno, o praticamente nessuno. Nei centri urbani storici quasi nessuno. Allora di chi si parla? Ecco, e questo è il punto fondamentale della discussione. Si vuole dare la casa a chi non ce l'ha, non mi sembra sia questo il provvedimento. Io però vorrei capire una cosa, Presidente, sì. Perché da un lato c'è la critica apocalittica, e cioè, attenzione, se passa questa linea di liberalizzazione... No, ma io sto partendo da un'altra questione. Sì, no, un attimo. Poi arriva anche a quella. No, ma io voglio capire questo, perché o è vera l'una o è vera l'altra. O è vero che questi provvedimenti adombrati, ma insomma però... Il contenuto di fondo si capisce, è ovvio, no? La autocertificazione al posto della licenza edilizia è chiaramente un invito a muoversi, a investire, a chiamare un'impresa, aprire un cantiere in varie dimensioni, in varie misure naturalmente, qui saranno 18 metri quadrati, in una villetta un po' più grande sarà di più e poi c'è tutta la parte del commerciale, dei negozi, delle superfici industriali eccetera. Allora dico, da un lato c'è questa idea qui, cementificazione, cioè la cosa dilagherà e sfigurerà il paese, dall'altro, come lei sta dicendo, e come un po' ha detto prima anche Della Seta, dice ma non mi pare che sia risolutivo, non credo che innescherà grandi lavori, grandi cantieri. Io guarda, la mia idea è che accadranno tutte e due le cose, non le vedo. E come è possibile? Dico la mia opinione, sì, naturalmente certo. È un'opinione, certo. Naturalmente è un'opinione al buio, perché ripeto, le regioni non sono state minimamente coinvolte su questo, salvo qualcuno credo a livello assolutamente personale, ma anche questo non è uno stile di governo. Io considero accettabile. Comunque le due cose non è detto che siano alternative, perché da un lato non si risolverà il vero problema della casa, di chi ne ha bisogno. Dall'altro c'è un'incitazione, è un condono preventivo per fare tutta una serie di cose che magari non produrranno uno sconquasso assoluto, ma produrranno un'ulteriore caduta del senso civico, un'ulteriore caduta dell'abitudine a gestire bene il tema edilizio urbanistico nelle nostre città. Io penso molto anche alla Toscana, ma mica solo da noi. Questo è il problema che verrà a determinarsi. Cioè le due cose non sono alternative. Sentiamo Luigi da Milano un momento. Da qui, Presidente. Pronto? Sì. Pronto? Sì, allora, pronto. Sono Ferrara. La ringrazio intanto per la trasmissione. Sì, vabbè. Vedo che però state parlando di questioni prettamente tecniche e che quindi gli ascoltatori poco capiscono. Io dico semplicemente una cosa, che affinché ci saranno queste diatribe prima fra politici e poi fra politici e giudici e poi coi comuni che praticamente non si mettono d'accordo perché ognuno ha una legge diversa, questo è diventato un caos. Possono costruire finché vogliono, ma quando poi danno le case a determinate persone, rovinano gli interi quartieri che sono dei gioielli in Milano, e questo non è possibile. Allora cosa serve costruire, costruire, quando dopo mandiamo al degrado interi quartieri che sono poi da rifare? Ecco, in Milano ci sono dei gioielli, ma dico dei gioielli, rovinati da gente che addirittura... Va bene, dicono, e questa è una legittima un esempio, protesta. Invece c'è, un, c'è Lorenzo dalla provincia di Vicenza che è più ottimista, mi pare. Lorenzo. Sì, grazie per avermi chiamato. Ma io volevo farvi un esempio di vincolo paesaggistico nel Veneto, a prescindere dal fatto che sono in provincia di Vicenza. Allora io abito a meno di 250 metri da un fossato, non un torrente o un fiume, un fossato. Ebbene, dovrei costruire una piattaforma elevatrice per disabili, è come una, un piccolo ascensore, un metro quadrato di superficie. Ebbene, sono sottoposto a vincolo paesaggistico. Il paesaggio che vedo da questa finestra sono dei tetti di capannoni industriali, però questo è in stato di abbandono. Poi ci sono gli scarichi delle cabine di verniciatura. Sì, adesso non entriamo troppo nel dettaglio. Lei cosa vuole dirci? Che ci sono che troppi ci sono vincoli o che sono dei buoni vincoli ed equilibrati? Che ci sono dei vincoli paesaggistici che invece sono... vessatori, stolti, perché qui il paesaggio, come vi descrivo... Ho capito. No? E infatti in Veneto si stanno muovendo per andare incontro a questo tipo di obiezioni, di proteste. Della Seta, ha sentito anche Martini, ma ha sentito l'obiezione che io facevo. Non si possono dire tutte e due le cose insieme. E cioè, da un lato che è una roba che non risolve il problema di rimettere in moto l'industria edilizia in Italia, di creare posti di lavoro, di dare nuove opportunità d'impresa, e dall'altro che invece sarà una cementificazione di tutta l'Italia, sarà un disastro. Ma io non penso che... Io non penso che sarà una cementificazione di tutta l'Italia, penso che, il, come diceva peraltro anche Martini, il messaggio che arriverà a una parte del paese, a quelli che per esempio anche negli anni scorsi hanno fatto abusivismo edilizio, è un messaggio, come dire, di incoraggiamento ad agire o fuori dalle regole o al limite delle regole. Per quanto riguarda gli effetti benefici, il punto è capire chi beneficerà di queste eventuali misure. Allora, in Italia c'è un problema della casa enorme. Questo problema si risolve dando, in particolare creando un mercato delle case in affitto, che è la vera anomalia italiana, perché in Italia non c'è un mercato vero, significativo, disponibile per le persone che non possono permettersi di comprarsi un'abitazione di case in affitto. Allora, questo problema si risolve in un unico modo, come si è risolto sempre e in tutto il mondo, facendo edilizia economica e popolare, e quindi però trovando le risorse, cacciando fuori i soldi. Ho capito, no, invece da questo punto di vista nel piano del governo c'è poco. Aspetti che c'è Filippo da Lucca che vuole dirle qualcosa. Filippo. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi faccio un brevissimo appunto. L'onorevole Della Seta, prima, se non ho capito male, ha fatto questo ragionamento. C'è crisi, la gente non si può permettere di spendere e quindi non può costruire, non è perché ci sono i vincoli comunali. Io faccio presente una cosa, è mai andato in un ufficio comunale a chiedere la possibilità di ampliare, di costruire? Ha in mente quanti soldi ci vogliono per pagare un geometra e un architetto, l'onorevole Della Seta? Tutta questa situazione economica è bloccata da vincoli continui che vengono dalle USL, dai comuni, dalle province, dalle regioni. Ma che esperienza ha un cittadino a migliorare la sua condizione se gli costa il 60% in più di tasse, di permessi, di professionisti? Oggi si parla di crisi. Io credo, non continuano a capire i nostri onorevoli, che non è la crisi economica che ha cambiato le abitudini degli italiani, sono le abitudini dei cittadini del mondo che sono cambiate e hanno provocato una crisi. Dal mio punto di vista, che è umile, però non dico. Bene. Filippo da Lucca è stato molto duro, ha detto non fate finta di niente, la realtà è che è molto difficile ottenere i permessi, che costa molto la parcella, la notula dell'architetto, del geometra, la realtà è che è scoraggiata l'iniziativa individuale, l'iniziativa privata. Nel campo dell'edilizia non si può fare quasi nulla. Della Seta. Io so bene cosa significa chiedere una licenza edilizia, aspettare per ottenerla, so anche quello che dicono i numeri, l'ho già detto e lo ripeto, in Italia come in Europa l'edilizia non si è fermata per queste pastoie burocratiche più o meno rilevanti, più o meno diffuse, si è fermata perché non ci sono più soldi da spendere, quindi da lì bisogna ripartire. Il modo per ripartire e far ripartire l'edilizia considerando questa premessa che mi sembra indiscutibile, è o trovare le risorse per costruire case popolari e darle in affitto a chi ne ha bisogno, oppure incentivare la ristrutturazione degli edifici attraverso strumenti fiscali, quelli per esempio del 55% orientati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che ci sono già, potrebbero essere sviluppati. Non credo che ci siano alternative a questa scelta. L'alternativa del governo che sembra voler proporre il governo Berlusconi ha forse efficacia dal punto di vista del messaggio al paese, ma credo che avrà, e lo ripeto anche se può sembrare una contraddizione, da una parte non avrà nessun effetto anticongiunturale, perché ripeto, i soldi se non ci sono non è che attraverso queste misure improvvisamente gli italiani li avranno per demolire casa loro e ricostruirla più bella, e nello stesso tempo sarà un messaggio di deregulation e quindi di incoraggiamento o all'abusivismo o comunque a rovinare un territorio che è già molto rovinato. Presidente Martini, la concorrenza tra le regioni, cosa succede se il Veneto, la Lombardia, altre regioni si incamminano su questa strada, cioè accettano nell'ambito di una nuova legge quadro nazionale, posto che questa passi naturalmente la verifica venerdì del Consiglio dei Ministri e poi delle Camere, si incamminano su questa strada e quindi diciamo stimolano la libertà di prendere la propria villetta, il proprio appartamento, eccetera, ristrutturarlo, ampliare la cubatura, e invece altre regioni, che ne so, l'Emilia, la Toscana, si attengono a criteri più restrittivi. Non c'è un rischio consenso? Vabbè, questo lo verificheremo ognuno nel proprio territorio, ognuno si assumerà la responsabilità che ritiene adeguata alla cultura della propria gente. Non so, questo, d'altra parte, non credo che si possa imporre a tutte le regioni di fare come ha deciso di fare il primo. Altrimenti dov'è il federalismo? Di cosa parliamo? No, certo, io credo che ognuno si assumerà le responsabilità, farà le scelte in piena coscienza davanti ai propri elettori, alle proprie istituzioni. Io quello che dico è che forse, cioè non forse, qui manca completamente un momento nel quale il governo con tutte le regioni apre un confronto su questi temi. E quali sono i temi che vengono fuori? Anche quello che i cittadini che hanno telefonato, sicuramente un problema vero, la burocrazia, i tempi. Ma ecco, perché guardi, Presidente, ce n'è un altro di problema, un altro problema proposto di una signora di Parma, Amalia. Amalia, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Amalia, prego. Sì. Senta, volevo dire, è inutile che dicono, a prescindere, che non serve a niente aumentare del 20 o 30% le case di proprietà. Perché ci sono persone anziane che hanno dei figli che guadagnano poco e non possono comprarsi una casa, se potessero ampliare del 20 o 30% le loro case avrebbero una casa a prezzi inferiori, perché spero che su una casa da ampliare le spese di urbanizzazione non siano care come su una casa nuova, e con i lotti che costano così cari adesso è impossibile avvicinarsi a delle case nuove. Insomma, quindi lei dice c'è una razionalità sociale in questa idea, ampliate le case appunto per i figli, eccetera. Va bene, grazie Amalia. Martini, ha sentito? Sì, sì, no, ma io capisco queste cose, sono tutte cose che stanno nel quadro della vita della gente, a parte che io poi alla fine credo che bisognerà che questa discussione metta i piedi per terra. Cioè, certo. Io immagino, mediamente, una famiglia ha una casa di... quanto può avere? 70-80 metri quadri, diciamo una media, sì. Lasciamo stare le ville, sì, di cui parla il Premier, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma la gente normale non ha le ville, ha le case di 60-70 metri quadri, 80, il 20% sono 14 metri quadri, è una stanza, io non credo che così si risolva il problema, cioè si può risolvere qualche problema, per carità, io, del resto ci sono già le leggi regionali che questo lo consentono. Il vero problema è che qui si vuole proporlo in deroga a tutti gli strumenti urbanistici, a tutti gli strumenti. Ho capito, la cosa che vi allarma è proprio la deroga sugli strumenti urbanistici, è quella roba dell'auto. Un'ultima cosa, se sì, mi consente, un'ultima cosa. Prego, prego. Ma proprio 30 secondi. Il problema è che ci sono, se il governo dice acceleriamo tutto, semplifichiamo, mettiamoci a sedere e ragioniamo. Tra l'altro io dico, ci sono tutta una serie di piani dei comuni che sono fermi per i vincoli del patto di stabilità. Ci sono dei progetti pronti a partire per fare le case che non si possono fare perché il limite del patto di stabilità impedisce ai comuni di investire. Allora rimuoviamo o alleggeriamo il patto di stabilità. Va bene. Grazie Presidente Martini, grazie a Saverio Fossati, a Roberto Della Seta. E grazie a tutti voi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Ci sentiamo domani mattina alla stessa ora. Grazie. Parliamo con l'elefante.